fai pom bel po po po pom pom pom pom sporom pom pom pom pom pom sbiravo le mani con il sapone, sei pom bel po po po. Cresci forti e sani nelle nostre mani, lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, bagna in savona, spreca e risciacqua, lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, sì. Io sono il batterio e ti farò venire mal di pancia. Io sono il batterio e ti farò venire mal di pancia. Se non ti lavi le mani ti verrà mal di pancia. Sono il batterio, ti farò venire mal di pancia. Cresci forti e sani nelle nostre mani. Lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani. Bagna e insabbona, spreca e risciacqua. Lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, sì. Io sono il virus e ti farò venire mal di gola. Io sono il virus e ti farò venire mal di gola. Se non ti lavi le mani ti verrà mal di gola, perché sono il virus e ti farò venire mal di gola. Cresci forti e sani nelle nostre mani. Lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani. Bagna in savona, spreca e risciacqua. Lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, sì. Voglio farti prenire il prurito. Se non ti lavi le mani ti verrà prurito. Sono il fungo, ti farò venire il prurito. Cresci forti e sani nelle nostre mani. Lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani, lavati le mani. Bagna e insabbona, sprega e risciacqua. Lavati le mani, lavati le mani. Siamo germi, ti faremo ammalare. Siamo germi, ti faremo ammalare. Se non ti lavi le mani, ti faremo ammalare. Siamo germi, ti faremo ammalare. Cresci forti e sani.